leşkerim leşkerim, şerkerim şerkerim, leşkerim leşkerim, şerkerim şerkerim. Acot kar u kar kerim, doza faz bawarim. Acot kar u kar kerim, doza faz bawarim. O alat şuraş kerim, o alat şuraş kerim, o alat şuraş kerim. Buonasera, ciao a tutte, a tutti e a tutto. Io sono Marta, questa è Radio Lotto Tutto l'Anno e con me questa sera ci sono Vale e Benny. Ciao! Ciao! Ciao, ciao a tutto! Allora, come avrete intuito dalla musica che ci ha precedute, abbiamo una puntata a tema, vero ragazze? Sì, questa sera siamo con Benny. E Benny, vabbè, si è fatta amare e conoscere perché in questi anni ha lavorato molto sulla questione. Il suo ultimo documentario, I Am the Revolution, che parla della lotta di queste tre donne in Iraq, in Afghanistan e Rojava. Scrive e collabora con giornali internazionali e anche in Italia, tra cui con il Fatto Quotidiano. Quindi la puntata di questa sera vuole salutare Benny, darle il welcoming, accoglierla in questa Italia in isolamento e darci la possibilità di ascoltarla e ascoltare quelle che sono le narrazioni del confederalismo democratico e della rivoluzione della donna. Per cui ciao Benny. Ciao, grazie mille per avermi ospitata. Ci piacerebbe dirti bentornata Benny, però come dire... Apriamo un vaso di Pandora qua. Va bene, quindi la puntata è a tema, la musica anche. Non so se Benny vuoi dirci due parole su questo. Sì, la musica sono tutti pezzi da Rojava che sono stati composti negli ultimi anni, alcuni, uno in particolare anche molto recentemente, ed è tutta musica, diciamo, che si ascolta spesso e volentieri lì, e questa è una mia personalissima selezione dei pezzi che a me sono piaciuti di più in questi anni, in questo ultimo anno che ho passato lì e che per me hanno un sacco di ricordi, insomma, dietro. Per quel che riguarda i titoli, diciamo che non sono molto ferrata perché poi sono pezzi, insomma, così, poi ovviamente tutto in curdo. Quindi, insomma, ho pensato di farvi questa selezione. Comunque vi ricordiamo che poi tutta la puntata, come tutte le puntate, sarà scaricabile in podcast a partire da domani e quindi anche la musica la potrete risentire così. Allora, per cominciare, io come da tradizione, darei i nostri contatti. Lo diciamo sempre che per noi è importante che questa sia una radio costruita insieme. Non solo che ci tenga vicine, ma anche che sia partecipata nella costruzione dei contenuti e dell'immaginario che trasmettiamo. Quindi, se volete contattarci, potete farlo con la nostra mail, nonunadimenomilano@gmail.com, sul blog di nonunadimenomilano, nonunadimenomilanoblog.wordpress.com, su cui vi ricordo che trovate, oltre a tutte le riflessioni che Non Una di Meno Milano sta portando avanti in quest'epoca di quarantena, anche tutti i podcast della radio, lo avevo appena detto, i podcast delle lezioni di fuori classe, insomma tutto quello che stiamo generando in questa quarantena. Poi potete seguirci sui nostri canali social, Instagram, Twitter, Facebook, dove siamo appunto Non Una di Meno Milano. Abbiamo un canale Telegram, iscrivetevi, Non Una di Meno Milano. E questo più o meno è tutto rispetto ai contatti nostri di Non Una di Meno. Poi noi ci teniamo sempre a inizio puntata a dare anche dei numeri utili, in particolare il numero nazionale dei centri antiviolenza, perché sappiamo che Io Resto a Casa non è per tutte una dimensione di sicurezza, ma anzi, e quindi in questo momento ancora più ci sembra fondamentale riportare i numeri per chi fosse in difficoltà. Quindi il numero nazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere è il 1522 e su Milano noi ci teniamo sempre a ricordarlo perché i centri di violenza non sono tutti uguali. Potete in caso di difficoltà chiamare la Casa delle Donne Maltrattate, CADMI, che risponde allo 02 55 01 55 19. Lo ridico che mi sono incartata, 02 5501 5519, e le indicazioni, quelle di minima, no? Se hai bisogno di aiuto, esci di casa nelle uscite consentite per buttare la spazzatura, per fare la spesa e usa queste occasioni per chiamare il centro antiviolenza, ricordati sempre di cancellare la chiamata prima di rientrare in casa. Oltre a questo, gli altri contatti che diamo sempre sono quelli di obiezione respinta, perché anche in epoca di pandemia l'accesso alla salute sessuale è fondamentale. E quindi ci teniamo sempre a ricordarvi i contatti di obiezione respinta, che per questo momento così complesso ha messo a disposizione un canale Telegram dedicato al monitoraggio delle strutture che continuano a garantire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, all'aborto. Il canale Telegram è SOS aborto underscore COVID-19 e le compagne di obiezione respinta possono essere contattate sulla pagina Facebook di Obiezione Respinta o di IVG o Abortito e Sta Benissimo, oppure sul canale Instagram obiezione.respinta, via mail a obiezione.respinta@canaglie.org, e c'è anche un numero di telefono informativo attivo H24 che risponde al 331 96 34 889. Bene, finite le comunicazioni di servizio. Sono state un po' lunghe, scusatemi. Direi che possiamo entrare nel vivo della puntata. Lo facciamo ascoltando un pochino di musica. Cosa dite? Partiamo. Sì, dai, un brano, uno dei brani che ci ha dato Benedetta. Dai, e poi torniamo in diretta tra pochissimo. A tra poco. A tra poco. Correggiaro, correggiaro, c'è la desiderio contaro. Correggiaro, correggiaro, c'è la desiderio contaro. C'è me cagliau, c'è me cine, c'è la lebuna, jak robaro. C'è me cagliau, ava cine, c'è la lebuna, jak robaro. Raperina du calaro, passare na vie gorgeharo. Raperina du calaro, passare na vie gorgeharo. Mitenga benda hato faro, chakala hata be hawaro. Chakal hata be hawaro, khinjara pishtu damaro. Lo slogan che sta lanciando Nulla di Meno a livello nazionale, proprio per la situazione che l'isolamento e la costrizione a casa con un partner violento può creare. Quindi la casa non è solo un baluardo di sicurezza, ricordiamoci, io resto a casa, ma per le violenze, per le donne che sono in smart working con i figli a casa, per tutte quelle situazioni che si creano e che non sono inserite nel panorama generale di tutela. Per cui ricordiamoci questa cosa e entriamo nel vivo, direi, della puntata a questo punto. Volentieri. Cosa dite? Ma sì, dai. Volentieri. Benny, dicevamo che sei tornata da poco. Sei tornata da poco, probabilmente hai lasciato un tipo di contesto in una determinata situazione. Dicevamo, sei arrivata in un contesto un po' difficile e nuovo per tutti, tutte e tutto. Sarebbe molto interessante, secondo me, condividere un po' che tipo di situazione hai lasciato in quelle terre prima di tornare, se hai qualcosa da raccontare rispetto invece alla situazione attuale, quindi anche la situazione sanitaria che si sta vivendo un po' a livello globale. Ma sarebbe anche interessante capire da te com'è stato cambiare, cioè, la tua esperienza di aver cambiato così il contesto in maniera fulminea ed essere arrivata in questo. Insomma, raccontaci un po' come va. Diciamo che è stato abbastanza hardcore come cambio, nel senso che ovviamente io non mi aspettavo di arrivare in isolamento, soprattutto poi ho passato gli ultimi 10 mesi a vivere in una maniera molto estremamente comunitaria, dove comunque non si è mai da soli, perché non si è mai sole, cioè si vive con qualcuno, si lavora sempre con qualcuno, anzi i momenti di solitudine sono molto molto rari e agognati da un certo punto di vista, da quel tipo di contesto all'isolamento è stato, ecco, non facilissimo. Io poi in realtà dovevo già tornare, non sono tornata per il coronavirus, ma era già in programma che dovessi tornare agli inizi di marzo, e quindi diciamo che ho preso veramente poi alla fine gli ultimi voli disponibili per tornare in Italia. Quando ho lasciato, diciamo, il Rojava, la situazione era abbastanza stabile da un punto di vista militare, nel senso che l'attacco, comunque gli attacchi continuano i bombardamenti in alcuni punti molto ben precisi, che sono Tel Tamer, Ain Issa, tutta una serie di città per cui la Turchia sta spingendo per cercare di controllare appunto queste città, che sono geograficamente estremamente importanti per il controllo dell'area, però è una guerra, continua a essere in questo momento un conflitto a bassa intensità per molte ragioni, tra cui comunque la campagna della Turchia su Idlib, che è appunto contro il regime, e poi anche la situazione del coronavirus, che poi in realtà è scoppiata quando io sono andata via. Credo che sia importante, perché credo che negli ultimi mesi molto sia stato detto sul Rojava, se ne è parlato più o meno tanto, poi mi direte anche voi, insomma, che tipo di eco c'è stato, però devo dire che da lì noi abbiamo sentito fin dall'inizio, dall'attacco alla Turchia, comunque una solidarietà internazionale che ha fatto molto molto bene in generale. Si è sentita molto. Detto questo, però, sono anche circolate molte voci, tra quelle che con un accordo con il regime, che in realtà è un accordo prettamente militare, l'amministrazione autonoma e il movimento curdo abbia lasciato spazio a livello politico al regime, cosa che non è assolutamente vera, anzi ci tengo molto a sottolineare che comunque il controllo dell'area che è rimasta rispetto a quella che ha invaso la Turchia è totalmente sotto il controllo dei compagni e continua comunque nella sua esperienza rivoluzionaria. Lo dico perché comunque poi anche su internet si trovano un sacco, un po' di quelle che si chiamano fake news, no? Detto questo, la situazione attuale è di quarantena. E ovviamente, cioè, o meglio, E che scusate, cos'è intanto la non so. quarantena? Il Cos'è la Rojava? quarantena lì? Sì. La quarantena è si sta in casa, non si esce, però si sta in casa tutti insieme. E quindi è proprio è molto diverso, non si può uscire, non si può andare tra le città, cioè comunque la quarantena. Mi dicono che è stata messa in atto, diciamo così, molto duramente, proprio perché comunque la grande paura è che se scoppiasse una pandemia domani in Certo. Rojava ci sono 34 posti letto in rianimazione, 14 ventilatori, voi capite bene che è una cosa che non si può fare, Un'ecatombe. quindi sono corsi al riparo, ma loro sono entrati in quarantena intorno al 15 di marzo. E comunque non avevano casi. Adesso i casi cominciano No, ad arrivare infatti. da Damasco, ad Aleppo, ci sono alcuni, perché comunque al fronte ci sono alcuni punti dove comunque l'SDF, le forze democratiche siriane, controllano, magari sono molto molto vicini al regime, nel senso che la casa di fianco, e quindi adesso stanno cercando un attimo di capire come mettere, cioè, come cercare di avere delle protezioni in più, no? Però insomma, questo è un po' in generale, e tutte le operazioni sono ferme. Mi dicevano appunto l'altro giorno che è tutto fermo, cominciano a fare comunque la scuola, ovviamente la scuola non si va più a scuola, cioè tutto chiuso, e si aspetta, e così vale anche per la guerra, anche se la Turchia l'altro giorno, ieri, ha bombardato vicino ad Afrin, continua comunque a spingere nella parte più occidentale del nord-est della Siria, cioè verso tutta quella parte appunto più verso ovest. Detto questo, ci sono state delle complicazioni, quando sono partita comunque ci sono state delle grandi problematiche, e ultimamente di nuovo la Turchia ha bombardato la diga di Aluk, lasciando quasi 1 milione di persone senza acqua nella regione di Hasaka, dove ci sono anche molti profughi che arrivano dalla guerra del Serkania, quest'ultima ondata di guerra, e in più i campi dove ci sono tutti i familiari dello Stato Islamico, più le prigioni, insomma, molto molto complicato, e in più l'inflazione. C'è stata un'inflazione, una botta di inflazione a gennaio, che ha raddoppiato sostanzialmente il costo delle sterline siriane nei confronti del dollaro. Per farvi un esempio, quest'estate il cambio era 550 sterline siriane, e quando sono andata via era a 1200. Merda. Cioè, ecco. Sì. Cioè, mi viene un po' così a sentimento, a pelle, a sentire quello che dici, no? Che come ci fossero solo due grandi contraddizioni, no? Però da un lato una comunità che forse sa prendersi cura della comunità meglio di quanto facciamo noi nel nostro, così, nelle nostre monadi delle grandi metropoli europee, da un lato, dall'altro però ovviamente un po' delle condizioni proibitive di partenza, lo dicevi tu, la disponibilità di posti in rianimazione, di ventilatori, ma poi anche ovviamente un conflitto che non rispetta niente, cioè un conflitto che non rispetta niente, nessuno. Dalla Turchia non ci aspettavamo chissà quale rispetto, però come dire, sentirlo raccontare, no? Avere chiaro che anche in una situazione così grave comunque i bombardamenti continuino è terribile. Ogni tanto perdiamo Benny, credo. Leva giù la connessione. No, sì, ho sentito che c'è, anche io ho sentito un piccolo... Sentite? Una perdita di contatto. A proposito sul di telefono, questo... però... A proposito di questo, io vorrei dire, appunto, raccontare che la Turchia in questi giorni, che comunque sta avendo una crisi sul Covid molto molto forte, pare abbia spostato, e lo dico, insomma, molte persone lo hanno raccontato, lo stanno raccontando in questi giorni, che la Turchia ha spostato malati di Covid a Serekanie e ad Afrin, proprio per buttarli fuori, diciamo così, dalla Turchia, ma in queste zone controllate dalla Turchia non c'è la quarantena. E quindi la vita continua normalmente, e ovviamente tutto questo crea abbastanza il panico, no? In tutto intorno. Perché... Certamente. Immaginabile, pazzesco. Ma sono tutte quelle cose che rientrano poi nel grande cappello di tentativo anche di pulizia etnica, no? Questa è un'altra delle cose che potrebbero annoverarsi tra gli strumenti che vengono utilizzati da alcuni tiranni e verso altre popolazioni contro l'autodeterminazione dei popoli. Assolutamente sì, e secondo me è proprio anche proprio una tecnica, no? Per la Turchia, perché nel momento in cui scoppiasse, diciamo, una pandemia nel Rojava, vabbè, allora lì certamente è proprio fatto, no? Certo. E non dimentichiamoci sempre Turchia, dove dall'inizio della quarantena c'è praticamente uno stupro al giorno. Questo non riguarda strettamente l'argomento di stasera, però quando uno Stato è tiranno, e Stati non tiranni oggi è molto difficile scovarli anche nelle cosiddette democrazie, ma quando uno Stato è così apertamente tiranno, ovviamente le ultime ad essere tutelate sono le persone che sopravvivono alla violenza di genere, le soggettività represse. Sentite, esattamente. Allora Benny ci ha portato anche una serie di contributi audio, giusto, no? Questa diretta, vogliamo magari mandare il primo? Vai, vai Marta. Benny vuoi introdurlo o lo ascoltiamo e facciamo tutto dopo? Come volete. Dai, dici dopo. Qualcosa. Ah, ok. Sì, eravamo in dubbio fino a 5 minuti prima di essere in onda su e questa cosa, per cui tolti. Decidiamo adesso. No. Io ho chiesto due compagne con cui abbiamo lavorato e vissuto insieme in diversi momenti, eccetera. Che cosa si cosa hanno dentro del Rojava, che cosa vuol dire vivere all'interno di una rivoluzione, che cosa hanno imparato. E queste sono un po' le loro risposte, ecco. Va bene, allora ascoltiamo grazie. Una parte del primo contributo e poi torniamo a parlarne. What means to live in a revolution? For me it's basically a dream. It's basically something that I never thought that could happen to me. Yes, a privilege to see how we can apply another ways to organize the society in a huge way, because I was involved with different projects in Spain, but always the projects that I was involved with, like in a small community who has a little impact into the society, and yeah, to see that it's possible to build an alternative to capitalism in a very big region, in a huge territory, that show you that the hope is possible, and it's possible to be outside of this system and try to build alternative. Really, it's hope. The main thing is a dream and hope. Also, I think it's so important to notice that it's a process, and it's not something that it's perfect. It's not all going like in a perfect way. There's a lot of things that is necessary to change and to correct. But yeah, revolution is a process. It's something that nobody has the instructions to do it perfectly in the first moment. And in this process also we can learn a lot of each other. And this process also is a privilege to be part of this process. And yeah, to be a witness of the things that is happening in different places. But in Kurdistan, in Rojava, is now one of the most important places that it can look at a revolutionary process to learn and apply in our societies in different ways. Eccoci, tornate in diretta, adesso magari traduciamo quello che sì, dai, vado con una traduzione dell'audio. Vivere nella rivoluzione per me è come un sogno, non ho mai pensato che mi potesse succedere. Sono una privilegiata a poter vedere come si organizza una società in maniera diversa. Ero coinvolta in progetti differenti in Spagna, in una piccola comunità, ma vedere che è possibile, che c'è un'alternativa al capitalismo in un territorio enorme, ti fa vedere che c'è una speranza di poter stare al di fuori del sistema e costruire un'alternativa. La cosa principale è la speranza e un sogno. È importante capire che questo è comunque un processo, non è qualcosa che è perfetto e va sempre tutto bene. Ci sono un sacco di cose che bisogna cambiare e correggere, ma la rivoluzione è un processo ed è qualcosa che nessuno ha le istruzioni per fare. In questo processo possiamo imparare molto le une dalle altre ed è un privilegio, un gran privilegio far parte di questo processo. Oggi Rojava è uno dei posti più importanti per vedere, osservare un processo rivoluzionario, impararlo e cercare di applicarlo nelle nostre società. Bomba. Io se posso, poi sto zitta e lascio parlare la Benny, che sicuramente ha delle robe più interessanti di me da dire, però una delle cose che mi ha colpito fin da subito di questo primo messaggio è questa parola che lei ripete due volte, che è privilegio. No, fare parte di una rivoluzione è un privilegio, è anche un privilegio. A me, ad esempio, la prima cosa che mi verrebbe da come dire, cioè sono altre, no? le parole che magari dall'esterno, da lontano, ti verrebbe da riferire a persone che stanno attivamente prendendo parte a una rivoluzione, no? Il coraggio, la gratitudine, però questa cosa del privilegio, secondo me, è una cosa bellissima. Io condivido la questione del privilegio, nel senso che veramente ci si sente non solo privilegiati da poter andare e poter andare via per poter poi trasmettere, no? Quello che si è imparato, quello che si è osservato e tutto quanto. Ma quello che a me interessa molto comunque di quello che ha detto questa compagna è il fatto che la rivoluzione è un processo. Io sono stata in Rojava tante volte e devo dire che negli anni mi sono accorta quanto spesso noi tendiamo a idealizzare le cose, no? A idealizzare, cioè la rivoluzione di Rojava non è perfetta e questo secondo me è molto importante di quello che dice la compagna. E ci sono delle contraddizioni e in questo processo, no? Quando tu lo vivi dentro proprio, vedi le contraddizioni e la forza qual è? Che cerchi in qualche maniera di aggiustare il tiro. Con comunque degli strumenti che il movimento ti dà a disposizione, però ci provi, no? Perché comunque nessuno ha veramente una guida su cui c'è scritto che okay, la rivoluzione si fa così, così, così, così, così, perché poi inizia la praticità, entri nella società. Come fai a entrare nella società? Cioè, seguire tutta questa parte per me è stato veramente un privilegio, ma estremamente affascinante. Ma tra l'altro uno dei meriti che mi viene in mente proprio della rivoluzione, ridiciamo questa parola, del confederalismo democratico, è aver riportato alla realtà la parola rivoluzione, cioè se è stato attuato un contesto in cui il processo è ancora in corso, ma un processo rivoluzionario, un simile linguaggio, se io ci penso in un paese X occidentale potrebbe sembrare o un linguaggio, non l'usare la parola rivoluzione, o potrebbe sembrare una cosa da idealisti che non hanno visto, o una cosa vetero. La riattualizzazione della parola rivoluzione, il fatto di poter credere e vedere che esiste la possibilità di attuare questo processo è sì un privilegio, ma il merito di riattualizzare questa parola secondo me è importante per una prospettiva anche internazionalista. Sì, Sì, però sì. Vai, vai scusami Benny, Marta. scusami. No, no, vai, vai. No, quello sicuramente io credo anche che negli anni, no, prima anche insomma, di questa esperienza del Rojava, la parola rivoluzione stava un po' perdendo di significato, no? Perché tutti alla Esatto. ricerca della rivoluzione. Ma la rivoluzione non è solo militare, la rivoluzione è una palla sfaccettata di tante pratiche messe insieme e che comunque continuano. Cioè, bisogna andare avanti, si va avanti, è proprio un processo e poterlo osservare, toccare con mano è qualcosa di estremamente straordinario. Sì, era proprio quello che sentivo, che pensavo, no? Che la chiave di questa cosa, come già hai detto tu, lo dicevi anche prima, è proprio la parola processo, nonché, come dire, la sperimentazione quotidiana e il riaggiustamento quotidiano nella comunità e nella realtà delle cose, no? Ci sono, lo dice anche la compagna, no? È chiaro che non è l'unica esperienza al mondo, ce ne sono delle altre, mi viene in mente l'America Latina, gli Zapatistas, Certo. però è vero che in questo momento quel luogo, cioè nel qui e ora, quell'esperienza è dirompente. Sì, anche perché poi riguarda quasi 5, cioè oltre 5 milioni di persone, Esatto. cioè con un territorio enorme, un terzo Esatto, della Siria. Che esatto. Ragazzi, mettiamo un po' di non è musica? poco. Eh no. Sì, mettiamo un po' di musica, dai. Va Tiriamoci bene. su. Balliamo che se non possiamo ballare arriva Magari, la sì. nostra rivoluzione. Ho una voglia di ballare incredibile, ragazze. Va Anche bene. io. E che musica sia allora? E vai. Bırakın kes soru sen bakın her du destan bırakın Abbiamo ballato? Abbiamo provato. Abbiamo ballato. Ballare è molto complicato, io ve lo dico, c'è tutti questi passettini che io... Però vado forte sull'allacciare il mignolo dell'altra persona. Ah, vabbè. Okay. In quello vado forte. Le basi, Vale. Io il coordinatore, esatto. Gambe, spalle, mi è ancora... Vabbè, la Benny, mentre eravamo fuori audio, ha detto, vabbè, dopo questo pezzo chiudono la radio. Vero? Poi noi abbiamo detto, per chiuderci ci dovevo trovare prima, però... è un pezzo che viene direttamente dalle montagne, che dice, guerrigliero, buongiorno, sostanzialmente. Siamo qua e siamo pronti alla lotta, e dove andremo oggi, dove ci porterà la rivoluzione. Bene. Ancora grazie bene, bene per sì. tutti i contributi, bene. Anche molto bene. Molto bene. Va bene, parlavamo... Vai, dopo questo... sì, Marta, vai. Vai, no, dicevo che, come dire, appena prima dello stacco musicale, sulle suggestioni anche del contributo che abbiamo ascoltato, abbiamo cominciato a parlare anche, accennare anche cosa vuol dire confederalismo democratico nella quotidianità. Nella vita quotidiana e anche ad accennare al tema fondante della rivoluzione della donna. Ecco. Sì, ci veniva in mente questo, cioè che sarebbe, che vogliamo condividere con tutto quello che ci ascoltano. Si parla di rivoluzione, si parla del fatto che uno dei pilastri della rivoluzione della donna è questo, che poi è stata soprattutto mostrata dal punto di vista militare, però questo ha anche dato molto slancio e molto consenso a livello internazionale a questa rivoluzione. Però ci interessava, per chi l'ha vissuta, ha fatto parte di questo processo e ne fa parte, anche se era lontano come Benny adesso, nella vita di tutti i giorni. Cosa significa questo? Sia quando parliamo in generale dell'organizzazione del confederalismo democratico, che della rivoluzione. Cos'è la rivoluzione della donna tutti i giorni? Io credo, insomma, il punto di partenza della rivoluzione Rojava per le donne era molto complicato, nel senso che è una società estremamente tradizionale e estremamente dura nei confronti delle donne, nel senso che, cioè, ci sono compagne che hanno cominciato già negli anni Ottanta a battersi appunto per il diritto delle donne, perché un tempo c'era, prima di ISIS, prima c'era comunque il regime che comunque le donne, nonostante sulla carta avessero alcuni diritti eccetera, però di fatto poi aveva una posizione di inferiore rispetto all'uomo, e questo era estremamente problematico. Io credo che quando si va nel Rojava in generale e si passa del tempo veramente, è proprio, come si può dire, l'organizzazione della società che cambia completamente, perché le donne non sono più obbligate a uscire di casa solo e solamente per avere un marito. Quindi oggi le donne lavorano, quindi oggi le donne le vedi in giro, le guidano, se ci sono tutte, oltre che combattono, oltre che comunque sviluppano una coscienza politica, però è proprio, cioè, un cambio di passo epocale in un territorio come quello. Ma non è solo quello, poi comunque la società è estremamente comunitaria già di suo, no? Però vivi, almeno io posso parlare della mia esperienza, vivi perennemente con delle donne, con le compagne, e insieme cresci, insieme insomma passi tanti momenti, lavori, vivi, ridi, scherzi, hai paura, cioè c'è la condivisione sostanzialmente totale, trasversale. Io credo che il mio rapporto con le donne sia cambiato estremamente da quando comunque ho avuto l'opportunità di stare in Rojava per così tanto tempo, ma già anche da prima, che comunque vuol dire, cioè, creare dei rapporti assolutamente unici da un certo punto di vista, perché non c'è mai la mediazione maschile, perché comunque vivi in un mondo fatto di donne, perché in tutte le istituzioni, in tutti gli ambiti della vita, anche quotidiana, ma militare, quotidiana, politica, c'è l'istituzione, diciamo così, delle donne, e quindi noi da donne andiamo da altre donne. E così si crea questo legame che diventa molto molto forte. Questo non vuol dire che non vedi mai gli uomini, questo non vuol dire che sei complice, che non ci sono spazi di condivisione, perché questo non è ovviamente vero. Però cominci a realizzare che cosa vuol dire avere stare solo con le donne. È un concetto che a volte sembra un po' complicato anche da spiegare per me, perché non, così sembra quasi banale, ma no, perché comunque tu se qualsiasi cosa tu abbia bisogno, tu puoi andare da una donna, qualsiasi, dalle robe militari alle robe più banali, comunque tu hai il tuo referente che è donna, e quindi passi da quella parte lì, ed è molto particolare, diciamo così, se vogliamo dirlo. A me viene da pensare, poi Benny, magari se sbaglio correggimi, che è anche uno dei modi per attuare, no, la rivoluzione della donna, perché comunque la mentalità patriarcale o patriarcato di fatto, come in alcune terre, porta poi a rapporti, no, di competizione o di avversità comunque tra donne, per come si sono create le dinamiche della società. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, non c'è più, c'è stata la volontà e la necessità di staccarsi, ma per ritrovare un rapporto tra le donne, perché questo è anche comunque uno degli effetti del sistema e del patriarcato, no? Cercare di mettere tutti e sempre in competizione, questo vuol dire essere in competizione anche con le donne e tra donne, e per fare in modo di decostruire questa cosa, questo, diciamo così, meccanismo che comunque noi abbiamo introiettato, perché noi viviamo in questa società, noi viviamo in questo contesto, anche se magari studiando cerchiamo di evitarlo, però per rompere questo processo, diciamo così, ci si isola e si prova a riportare, diciamo così, la palla nel proprio campo. Non so se l'analogia calcistica vale, però va bene, insomma. Vale, ci piace lo sport. Ci piace perché è molto chiara e peraltro passa chiaro il messaggio anche a chi lo deve ascoltare, mettiamola così. No, io devo dire che una delle cose che, per esempio, stare tanto con donne diverse di tutte le età, da giovanissime, 16, 17, 18 anni per quel che riguarda la gioventù, o fino anche donne che hanno anche 60 anni e che hanno dedicato completamente la loro vita alla rivoluzione, io devo dire che una delle cose che mi hanno insegnato tantissimo è la dolcezza. Cosa che io prima magari non ero così dolce, anzi, oppure non mi esprimevo con così grande dolcezza nei confronti di altre donne, ma compagne o non. E invece questa è una delle cose proprio che ti insegnano, come ci si relaziona, come si parla l'uno all'altra, anche con gli uomini, ma cominciamo con le donne. È un po', no, lo dicevi tu a un certo punto, non è che si tratta di non vederli mai gli uomini, o di, cioè, no, mi verrebbe da dire che è la distanza che passa tra il separatismo e la sorellanza, no? Cioè, non è il separatismo autoreferenziale, è la costruzione di un processo potente di sorellanza, perché ti riconosci, perché il lavoro su di sé è come dire, il primo pezzo fondamentale. Sì, ma io Niente, credo che abbia. emozionante. Sì, è molto emozionante, ma poi io credo che venga inteso un po' come lo intendo io, anche io stessa il separatismo, no? Non è che non si lavora con il movimento misto, non si lavora con gli uomini, è proprio che gli spazi di elaborazione sono diversi. Eh sì. E Va bene. quindi. Dimmi. No, scusa, finisci, pensavo No, no, avessi no, finito il discorso. vai. No, no, no. Ma raccontaci qualche aneddoto, qualcosa che ti viene in mente rispetto a osservare questa tensione, no? Nella vita, se ti viene in mente qualcosa. Di dolcezza dici No, anche proprio nel rispetto di questa autodeterminazione, processo di autodeterminazione della donna, collettivo, individuale, anche da parte degli uomini, se noti delle differenze rispetto al nostro contesto, se c'è qualche cosa che ci puoi raccontare. C'è molta più sorellanza, c'è assolutamente più sorellanza, anche soprattutto anche negli ambienti misti, no? Nelle istituzioni che sono miste, come possono essere le università oppure dei collettivi ben precisi, di internazionalisti, eccetera. C'è una sorellanza che io non ho mai visto in ambienti misti qui. Poi, ma anche nelle pratiche, nel senso che se io ho un problema, adesso faccio proprio una roba banalissima, Sì, sfuccia, sì. no? Io, prendiamo caso, ho un problema con te, Vale. E il movimento curdo preme molto su Takmir, sulla critica e l'autocritica, nel senso che ci sono momenti di condivisione e collettivi in cui ci si critica e si autocritica, che sia l'operato, come si sta insieme o di come abbiamo fatto l'assemblea, la giornata insieme. Se io ho qualcosa cioè, che secondo me tu hai sbagliato o che comunque insomma, di cui ci sono rimasta male, non lo farò mai in un ambiente misto, mai. Si parla sempre tra compagne, sempre solo tra compagne. E la ragione, una delle ragioni che mi è stata spiegata poi è proprio per non dare, siccome comunque diciamo lo spettro patriarcale è sempre lì, anche con compagni estremamente illuminati, per non dare Certamente. adito e possibilità di poter creare, diciamo così, delle Faida. problematiche tra di noi. Esatto, una faida. Sentite, vogliamo Ok. mandare l'altro contributo audio? Che Sì. insomma mi sembra che sia anche molto centrato rispetto a questo. E poi torniamo a parlarne in diretta. Ci sono tante cose che possiamo imparare da Rojava. Quello che adesso mi piacerebbe parlare è la nozione di vita libera, Afjian Azad, soprattutto come donne. Dovremmo sempre parlare di questa tematica per reattualizzarla, sempre, forse come base. Avevo una definizione e anche una pratica abbastanza o talmente individuale della libertà, mentre che da Rojava la libertà si capisce talmente collettiva. E secondo me la difficoltà è di trovare una bilancia fra la tua libertà individuale e anche quella collettiva. Secondo me si può avere dei rischi nella libertà collettiva, come quella di cadere nell'una sola identità, e soprattutto quando questa libertà proviene di una ideologia molto forte come quella del movimento curdo. Però nell'altro lato questa libertà ti dà una fortezza incredibile, con per esempio la perwardeh, durante una perwardeh che è una formazione ideologica, di essere rinchiuse per almeno 3 mesi in un posto. All'inizio avevo dubbi su questa cosa, che pale questa libertà, no? Mi sono detto tante cose all'inizio, di più che ci sono codici da capire e da fare, però poi non mi sono sentito tanta forte e libera dopo questa educazione, nel senso che non sei più da sola, sai che il tuo percorso l'hai fatto al fianco di altri compagni, avete cresciuto e vi siete costruiti insieme. In questo momento lo vedi, ma non sei più da sola sul cammino, siete diverse. E poi anche nella pratica, sempre collettiva, per provare di costruire un nuovo modo di vivere con delle donne, delle compagne in massa. E tutto questo, la libertà libera, Afjan Azad, porta anche al fatto di definire ancora le nostre valori, sia nella nostra vita, sia nel nostro movimento. Per me c'è un valore che ho imparato e che è molto forte in Rojava, è quella della vita, e nel senso della vita libera, come un valore principale e di base. Eccoci. Eccoci qua. Allora, invece questa era un'altra compagna con cui abbiamo fatto tra l'altro passato anche con lei un bel po' di tempo insieme quest'estate, insomma abbiamo stato veramente un bellissimo periodo quello che abbiamo passato insieme e quando io dico insieme è perché avevamo un progetto insieme e quindi lavoravamo insieme, eccetera. Io credo che una delle cose che riascoltando l'audio di questa compagna, una delle cose, delle due cose che insomma mi hanno colpito per comunque anche proprio per il vissuto, sono due cose. Uno, appunto, il fatto di Afshin Azad, cioè la vita libera, ma il fatto che non sei più sola. Io quel fatto che non, di non essere più sola, io lo sento tantissimo, perché abbiamo fatto dei percorsi insieme, perché abbiamo camminato insieme e spalla a spalla abbiamo sofferto, sicuramente abbiamo riso, abbiamo condiviso un pezzo di strada, ma abbiamo anche un obiettivo che è comune a lungo termine. Io lo so che tutte le persone comunque che siamo, con cui abbiamo condiviso molte cose in Rojava. Scusatemi, è caduta la connessione, adesso provo a richiamarle. Anzi, sapete cosa faccio? Intanto che le richiamo, vi faccio ascoltare un po' di musica e poi torniamo a parlare con Benny di questa cosa. Ci siamo recuperate così. Abbiamo approfittato della musica per ristabilire i nostri contatti telefonici. Bentornate, amiche. Eccoci di nuovo. Benny, tu stavi dicendo delle cose super importanti, Sì. E interessanti. credo ci siamo interrotte appunto sul concetto di non sentirsi più sole, no? Perché tutte noi, ma in generale, insomma, chi ha fatto un percorso nel Rojava, penso che insomma, abbia questo sentimento, ma credo molto di più, insomma, io vedo molte compagne che condividono questo sentimento, cioè di non sentirsi più appunto da sole, e tu sai di aver condiviso un pezzo di strada, ma un'educazione, ma anche appunto dei momenti che sono molto forti con delle persone, e soprattutto sappiamo che abbiamo l'obiettivo è comune, quindi stiamo camminando tutte nella stessa direzione. Questo secondo me è una cosa che si fa sentire molto sicura. Cioè, io so che comunque, nonostante adesso siamo lontane, eccetera, ma ci sentiamo sempre, cioè ci cerchiamo sempre di capire come stiamo, dove siamo, cosa stiamo facendo, proprio perché per avanzare insieme dobbiamo andare tutte insieme. E questo devo dire che è, insomma, un sentimento per me molto importante, che è diventato molto importante. Benny, su questa cosa che stai dicendo mi vengono in mente due cose che poi diventano due domande. La prima è una spifferata del fuori onda, nel senso che sarebbe molto bello condividere anche tutte le cose che ci diciamo fuori onda. Spiace per voi che non le sentite, però appunto provo a recuperare un pezzetto. Tu appunto fuori onda parlavi del contatto fisico, no? Del ruolo che gioca l'affettività proprio nel senso del contatto, no? In questo. E la seconda domanda, poi ne parliamo dopo, però a proposito del non essere mai sole, del continuare a cercarsi anche vicine e lontane, invece, come dire, ti do là, poi ne parliamo dopo, il tema dell'internazionalismo, no? E di come, che ruolo gioca in questa esperienza. Sì, ecco, nella parte appunto della dolcezza c'è anche una parte di fisicità, no? Nel senso che io prima di, insomma, queste esperienze non ero mai stata molto fisica, né con mie amiche, compagne, ma anche con i miei familiari non sono molto fisica, mentre lì invece diventi molto fisica perché è quasi naturale prendersi per mano, abbracciarsi. Allora stavo raccontando appunto del fuori onda che un giorno siamo andate a Racca perché avevamo un lavoro da fare e ci ha accolto da comandante, diciamo così, di Racca. E mi sono seduta, lei si è messa di fianco a me e subito ha cominciato a farmi i grattini sulla testa. Io ero estasiata, dopo mesi che nessuno mi toccava così, ero proprio contentissima. Però in generale si prende la mano, ci sta la mano, una delle parti, insomma, noi abbiamo visto magari sui media, eccetera, tutte queste le guerrigliere curde che hanno queste lunghe trecce ce le si fa a vicenda. C'è proprio tutto un ragionamento dietro, no? Per la fiducia, per il fatto che comunque tu ti apri una persona, le fai toccare la testa, i tuoi capelli, le parti più importanti appunto del tuo corpo. E quindi, insomma, questa è una delle parti che comunque, di nuovo, se cerco di capire come sono cambiata, questa sicuramente è una, cioè nel senso che poi magari non so se mi verrà ancora, non lo so perché siamo completamente in isolamento, quindi non tocco nessuno, non vedo nessuno e comincio a stare veramente male. Detto questo, insomma, vediamo anche se durerà, io spero che duri, no? Perché poi comunque sono gesti di affetto che sono importanti. Che ti cambiano, lo dicevi Secondo me prima. racconta anche molto questa in realtà di come si può intendere, no? La lotta militare, non la rivoluzione, spesso il nostro immaginario si rifà solo alla dimensione propriamente fisica, no? Dell'espressione della forza, a volte della violenza, però fisica. In realtà tutto questo fa parte di cambiare le basi, cambiare le relazioni, cambiare il modo di entrare in confidenza, no? Con chi abbiamo davanti. Per cui anche dal punto di vista dell'immaginario, secondo me, è un grande contributo quello che tu ci stai raccontando. Ah, cioè, questo spero che sia chiaro, che questi, diciamo così, moti di affetto fisici avvengono solo e solamente tra le donne, e non è mai misto, nel senso che tra compagni e compagni non ci si tocca, cioè ci si sta a 1 metro di distanza, ecco, no? Giusto per chiarire questa cosa qua. Poi anche i compagni tra di loro si prendono la mano, si abbracciano, c'è questa parte anche molto fisica dalla loro parte, perciò sono, insomma, due maniere di relazionarsi forse un po' diverse. E sì, io mi riallaccio a quello che dicevi tu, Vale, nel senso che secondo me negli ultimi anni, ma in generale, c'è stata sempre posta questa enfasi sulla parte militare della rivoluzione, no? Però in realtà l'internazionalismo non è solo militare, non dovrebbe esserlo, anche perché poi quando stai in un processo rivoluzionario non è detto che tu magari domani fai per 6 mesi, adesso faccio un esempio, la comandante dello YPG sul fronte di Manbijou, so, una delle altre grandi battaglie, però non è detto che tu faccia quel percorso per tutta la tua vita. Poi vai nelle istituzioni, poi lavori nella società civile, comunque ovviamente il processo è molto fluido, quindi in realtà, cioè, e soprattutto la rivoluzione intesa, cioè, proprio del Rojava, non è una rivoluzione che si basa sul militarismo, anzi, in realtà quella è un'autodifesa, però la vera rivoluzione sta nella Certo. società civile. Accennavi all'internazionalismo, Benny, no? Come dire, siamo qui, siamo femministe, quindi partiamo da noi, lo diciamo sempre. E una delle cose che volevamo chiederti è appunto proprio la tua esperienza, no? In questo senso, cosa ha significato per te, cosa continua a significare e se come è evoluto in questi anni, no? Perché ormai sono davvero, no? Io ogni tanto ci ripenso e sono passati tantissimi anni da quando abbiamo cominciato a parlare anche di internazionalismo e solidarietà col popolo curdo, anche qui in Italia, ad esempio, a parlarne in modo più mainstream, diciamo. Io, insomma, io la prima volta che sono andata in Rojava era il novembre del 2014, e poi insomma sono state tante tante volte e ho visto anche l'internazionalismo cambiare molto, nel senso rispetto ai primi anni che era molto più incentrato, vedevi persone che venivano veramente da tutto il mondo, magari ex militari di professione nei vari eserciti di tutto il mondo che arrivavano in Rojava appunto per combattere Daesh. Poi in realtà piano piano si sono costruite proprio degli istituti, li chiamo istituti perché in inglese si chiamano institutions, non saprei bene come, e sono adesso delle istituzioni, cioè, per quel che riguarda chi voleva venire a fare internazionalismo, che principalmente doveva essere imparare, capire e nel caso se ci, insomma, hanno a disposizione delle professionalità, metterle a disposizione della comunità. Se si hanno delle, io ho conosciuto tantissime compagne e compagni, veramente moltissimi tedeschi che sono venuti a fare i medici, tantissime compagne, veramente da tutti, ingegneri, ingegnere, si dice ingegnere, beh, insomma di tutto e di più, veramente. E secondo me questa è una parte molto molto interessante. E io, insomma, ci sono tante cose che si possono imparare da Rojava e secondo me potremmo mandare l'ultimo contributo per questa cosa qua. Cosa ne dite? Volentieri, volentieri, Dai, l'ascoltiamo va bene, mandiamo volentieri. l'ultimo contributo. Sì, è la seconda parte del primissimo contributo che abbiamo sentito. Io mi sento di fare, a proposito di critica e autocritica, scusate la banalità, la butto in caciara, però l'ho tagliato in modo un po' grezzo, però insomma adesso lo ascoltiamo perché come diceva Benny dice delle cose piuttosto importanti. Via. So, the things that were there, I learned there. A lot of them is not exactly new, no? But it's applied in a daily basis. So you live your life into a revolutionary context every day, and you are working with your friends inside these concepts of revolution and what you can give to the revolution. So it's not exactly new, but the method of critics and self-critics inside the coordination of the groups, of the institutions, for me is so useful. And yeah, as a Latin person, for me it was pretty difficult in the beginning to accept the critics as something as a part of love and as a part of the way to be a better revolutionary person. Yeah. But I think that it's very useful if it's done in the correct, in the proper way. And the proper way is, yes, is trying to fix the things that is not useful for a collective way of working and inside of a revolutionary perspective. And for me, it's one of the things that I learned. Also, other thing that for me is is completely amazing is how the Kurdish movement put the woman in the center of the revolution as the main revolutionary subject. That is the first thing, it's the first time that this happens in a revolutionary project. So it's something that also the left movements in Europe must learn, you know? And it's something that is we are saying all the seeing all in every place in the world, but it's becoming a huge movement, the women's movement for the liberation, the women's liberation. So yeah, this is something of, it's something that for me was amazing also in Rojava. It's how the movement, the woman movement, it's in the center of the political and social life and cultural life, and we are talking in a very, that Rojava and all this area was a pretty conservative place. And in a few time, we are talking about 8 years, they make a huge, huge change in the society. There's a lot of things that is need to change anyway. This is not all done, but yeah, this is an amazing and very fast process that the friends, the woman friends are doing there with and struggling there. And yeah, all these things for me are tools that are so useful to apply in our places, mainly to accept and the critics as a way to improve ourselves and make the real self-critic with a real conscience that is important to become a better revolutionary entity, a better revolutionary person. And the main role that the women's liberation have, I think this is something that we need to apply everywhere, even if you are anarchist, like in my case, or communist, or any organization of human rights, whatever. This is a very important lesson that we can take from the revolution in Rojava. Eccoci, tornate online. Magari adesso facciamo una traduzione un po' rapida delle cose che stavano in questo contributo, perché come ogni tanto diciamo, cito Carlotta che non è in diretta con noi, ma si può essere internazionalisti e internazionalisti anche senza conoscere le lingue, e quindi ci apprestiamo a tradurre. Vado, leggo io la traduzione? Vai, vai, sì. Allora, la compagna dice... Ho imparato un sacco di cose e molte non erano nuove per me. La rivoluzione è applicata nella quotidianità e quindi tu vivi nella rivoluzione tutti i giorni. Lavori con gli amici, i compagni, al centro della rivoluzione e di quello che tu puoi dare alla rivoluzione. Il metodo della critica e dell'autocritica, la cooperazione tra le istituzioni, è qualcosa di molto importante. Dall'America Latina per me è stato molto difficile accettare che la critica e l'autocritica fanno parte dell'amore e sono una maniera per essere un rivoluzionario migliore, ma penso che sia davvero molto utile se fatto nella maniera corretta per cercare di garantire dei comportamenti che non sono utili che sono utili alla collettività e dentro una prospettiva rivoluzionaria. Questa è una cosa che ho imparato. Poi è incredibile come il movimento curdo ha messo al centro le donne come concetto principale della rivoluzione. È la prima volta che questo avviene in un progetto rivoluzionario. Questa è una cosa che il movimento europeo deve imparare, e lo stiamo dicendo anche per altri paesi, e la liberazione delle donne sta diventando un movimento enorme. In Rojava le donne sono al centro della vita sociale, culturale, e questo è incredibile perché questo è sempre stato un luogo molto tradizionale. E in 8 anni si è riusciti in un cambiamento epocale nella società. Ci sono ancora molte cose da fare perché questo processo deve avvenire completamente, ma allo stesso tempo è un processo molto veloce. Per noi la cosa principale è di accettare la critica e l'autocritica come una maniera per migliorarsi e fare una vera autocritica, una vera presa di coscienza per essere una vera rivoluzionaria. Questo è il vero strumento che dobbiamo utilizzare a prescindere se si è anarchici, comunisti o attivisti dei diritti umani. È davvero una lezione importante che possiamo portare via dal Rojava. Beh, fantastico. Va al cuore di tutto, Benny, che dici? Beh, è sì. Proprio il cuore. Sì, Sì, perché comunque il fatto della critica e l'autocritica, che si chiama Tapmil, che poi in realtà è uno degli strumenti per la critica e l'autocritica, però è quello, diciamo così, più trasversale che conoscono più, perché poi ci sono cose un pochino più complesse, è davvero qualcosa di unico, ma soprattutto che aiuta è un momento in cui ci si distende, si parla, ci cerca di crescere insieme. Ed è appunto basato sull'amore, no? Quello che diceva prima appunto la compagna, no? E il fatto che bisogna cominciare a capire che la critica non è fatta per secondi fini, cose di potere o eccetera. No, la critica, Distruggere. esatto, o distruggere. E infatti è molto importante anche come ci si parla all'interno di questo contesto, che è un contesto molto preciso in cui tutte le istanze devono essere portate lì, sì, diciamo che ci. Cerca di non parlare mai in gruppi di due persone, mai. Se io ho un problema con chiunque, non posso andare da un'altra compagna con cui mi trovo meglio e parlarne. No, di solito si parla, la compagna mi risponde, ne parliamo in Tamil, perché nella vita collettiva c'è questo bisogno comunque di chiarimento, perché se io ho un problema con una compagna, è ovvio che questo poi si riflette sulla vita quotidiana di tutte. E quindi questo è anche molto importante, questa, diciamo così, trasparenza anche nei rapporti. Anche perché poi sennò si cominciano appunto a fare no, quelli che io chiamo i capannelli, magari impropriamente. Però, ma soprattutto il Takmil, durante il Takmil è l'unico momento, per quel che riguarda anche una parte militare, in cui si può criticare un comandante. Si esprime come si possono fare meglio le cose, non è solo criticare in quanto criticare, ma cercare di dare una soluzione al conflitto e poi superarlo insieme. Ma infatti la cosa che mi piace, mi sembra di aver anche capito in questi anni, che non si tratta, come spesso poi succede nella dialettica tra di noi, intendo noi nel senso largo, anche spazi misti, eccetera, non si tratta di aver ragione o avere torto, si tratta proprio di fare in modo di rendere consapevoli, autorendersi consapevoli, no? Che si possono cambiare anche modalità, che si può fare in un altro modo, cioè questo è anche un nodo della questione molto, molto bello, perché spesso tra di noi è una dialettica tra torto e ragione, e invece qui si scardina anche questa dinamica. Sì, e soprattutto c'è anche il concetto che quando si fa una critica alla persona che la riceve, o diciamo così, anche se pensa che la critica sia infondata, è molto importante cercare di capire perché la compagna ti sta dicendo questa cosa. Cercare di andare un pochino al di là, no? E non creare conflitto, non creare polemica, ma proprio quello di cercare di, insieme, in un atto d'amore, di superare una criticità. È parte di quel processo di cui parlavamo all'inizio, no? E che forse è proprio la potenza che sta alla base della rivoluzione del Rojava, no? E che ha permesso quell'evoluzione, che ha permesso, non lo so, potenza è forse unica parola che mi viene in mente per descriverlo. Sì, anche perché è uno spazio dove puoi correggere gli errori. Cioè, renderti conto degli errori, anche fatti, diciamo così, proprio a livello più largo, di larga scala, e cercare di correggere il tiro. E perciò questo comunque si parte dal presupposto che comunque noi tutti siamo, cioè, degli esseri umani e quindi abbiamo le nostre contraddizioni dentro di noi, e i lati positivi, i lati negativi, eccetera. Questo non vuol dire negarli, ma cercare di comunque evolversi. Bello. Grandi insegnamenti stasera, Sì, davvero. eh? Grandi riflessioni poi. Sì, e grazie Venny per averci Davvero. così Grazie a voi. trasportate anche di peso quasi in questa rivoluzione epocale. Di peso? E così perché, cioè, io così mi sento proprio fisicamente presa e portata Ah, in quel dentro, in quel senso, senso. ok. Sì, scusate, te la sembrare. Ti No, sono prendo per i io, capelli magari e ti trascino. arrivato a questo momento di quarantena, video lezioni, eccetera, a volte sfogo, a volte non connetto. Va bene, sentite, se siete d'accordo vi propongo di mettere l'ultimo pezzo di musica, poi torniamo in diretta per salutarci e chiudere questa puntata bella. Va Una benissimo. bene. D'accordo, allora ci sentiamo un po' di musica e torniamo tra poco. Torniamo in diretta per i saluti finali. Ancora grazie a Benny e a Vale per questa trasmissione, è stato veramente un piacere. La playlist, anzi il mixtape di questa sera è stato curato, realizzato da Lady J, che questa sera non poteva essere in diretta con noi e quindi ci ha lasciato un messaggio, un po' come per la rubrica della posta del cuore o del ti dedico una canzone. Lei ci ha dedicato un mixtape e vi leggo la sua dedica e vi saluto e ci sentiamo lunedì. Stasera, per vostra fortuna, non potrò abbassare il livello della trasmissione, scema, con un intervento live, ma credo basterà il mio mixtape registrato con tutto l'amore che ho. Mi mancate tanto, tutte, tutto e tutti. Spero Spero di regalarvi quasi un'oretta danzerina piena di belle musiche condite dai ritmi anni 70 e 80, da gustare col vostro cocktail preferito, ma sempre in compagnia della vostra P38. Bijou Kurdistan, viva il confederalismo democratico e viva la rivoluzione transfemminista, perché lo sanno anche i muri, se non possiamo ballare, non è la nostra E di rivoluzione. umettamento genitale, per usare un termine che possa non turbare nessuno, ma avete tutti capito cosa intendo? Bene, può essere addirittura profuso. Ci sono delle donne che quando raggiungono l'orgasmo, pensa, hanno una emissione quasi a schizzo di secrezione. E questo è normale. You're the one who tried to hurt me with goodbye. Just think I Barbara Streisand. Soldi. We'll be right back. to celebrate you, baby. I have to praise you like I Show up.